Amore, adesso che faccio? Giro a destra, giusto? Sì, esatto. Lampone. E mirtillo. Certi profumi possono diventare invadenti. Scegli le fragranze Ambipur Car e con il regolatore tieni sotto controllo l'intensità del profumo nella tua auto. Ambipur. Matisse, la seduzione di Michelangelo. L'incontro di due grandi artisti sedotti dalla forma. Un approccio mai tentato attraverso l'arte di Matisse. Dall'11 febbraio a Brescia, la mostra dell'anno. matissebrescia.it. Sono il 1254. Risolvo problemi. Anche impossibili, come trovare sagre della ciliegia in inverno e negozi aperti la domenica. Chiama il 1254. Informazioni, assistenza, numeri per risolvere ogni tua esigenza. Costi su 1254.it. Allora, Rosa, com'è il tuo nuovo lavoro? Fantastico! Sono un premio SO Extras! Davvero? Sì, devo controllare il micro wifi per iPod e iPhone! Decisamente meglio di quando ero un trolley! Sono davvero contenta per te! I nuovi premi SO Extras sono arrivati. Su quale hai messo gli occhi? Fai il tuo prossimo rifornimento alla ESSO. Operazione a premi. Per un litro di carburante almeno un punto ESSO Extras. Punti necessari, limitazioni e regolamento su essoextras.com. Meridiani ti mostra le mille anime del Giappone, l'incredibile Tokyo, il Monte Fuji, il padiglione d'oro di Kyoto, i manga, una fauna straordinaria, l'architettura senza limiti, i giardini zen e le preziose mucche allevate a birra. In edicola c'è un Meridiani da non perdere. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Tempo nel complesso in miglioramento oggi sull'Italia. Nuvole compatte associate a residui fenomeni insisteranno su basso Piemonte, Emilia Romagna e nord delle Marche, con neve inizialmente ancora a bassa quota nel Cuneese. Altrove nuvolosità più irregolare con schiarite parziali sul Tirreno più ampie al nord-est. Un nuovo peggioramento raggiunge la Sicilia con piogge o rovesci anche diffusi dal pomeriggio, in estensione in serata anche a Calabria e Alto Ionio. Temperature massime in lieve rialzo, eccetto nelle isole. Venti anche moderati su Liguria, Alto Adriatico e Ionio. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it e con questo è tutto. Che fate? Pesiamo la pirofila. Pesate cosa? La pirofila! Ultimamente dimagrita parecchio. Il grasso se ne va con Fairy tutto in uno per lavastoviglie. Grazie al suo liquido speciale ti dà una profonda azione sgrassante. Fairy tutto in uno. Via il grasso, resta solo il piacere. Davvero? Non ha più un filo di grasso. Ok, l'imbragatura è a posto. L'elastico è allacciato ai piedi. Perfetto. Al mio tre puoi lanciarti dal ponte, ok? Ok. Se vuoi divertirti ancora di più, stacchiamo l'elastico e ti lanci senza, eh? Ma no, aspetta! Dove vai? Senza sicurezza c'è poco da divertirsi. Scopri il nuovo design e contenuti esclusivi di Subaru Forester Model Year 2011. Tu anche con finanziamento fino a 20.000 euro in 48 rate da 470 euro. TAN 2.9 TAEG 3.83. Fino al 31 gennaio, salvo approvazione istituto erogante, info negli showroom aderenti. Sei commercialista? Quanto vale il tuo studio? Quanto può crescere? E come? Ratio Network e ConsulMind hanno le risposte. Sono i primi a dare soluzioni organizzative integrate a software di governo per far crescere gli studi professionali e dare un valore di mercato certificabile. Organizzare lo studio.it. Con quattro ruote un regalo imperdibile. Quattro ruote nel cruscotto. Il manuale tascabile da tenere sempre a bordo. Manutenzione, burocrazia, multe, guasti. Tutto ciò che l'automobilista deve sapere. In collaborazione con Chevrolet e Bosch. Inoltre da questo mese il nuovo inserto LED. E a solo 2 euro in più la guida con le quotazioni usato di tutti i modelli. Quattro ruote in edicola. 1861, l'Italia unita, la Brescia e Roma capitale. Marconi vince il Nobel nel 1909. Nel 15 l'Italia in guerra, uno a Caporetto, il fascismo. Nel 40 di un uomo in guerra, invasa, liberata. Anni 50 volare, anni 60 il boom. Anni 70 nativo a colori, anni 80 campioni del mondo. 2002, ecco l'euro. La storia d'Italia merita più spazio. Per questo ci sono 660 francobolli. Per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Posta Italiana presenta Francobolli d'Italia, una preziosa collezione filatelica in 33 fascicoli quindicinali. In tutti gli uffici postali, la prima uscita a soli 6 euro. Poste Italiane. In primo piano. La politica si interroga sulla proposta di Massimo D'Alema. Questo è il tema che trovate più sviluppato. Massimo D'Alema ha detto ieri in sostanza bisogna fare un'alleanza di tutte le forze, di tutte le coalizioni contro Berlusconi per abbattere Berlusconi.